io mi sdraio, sono stanco, ho l'ossa rotte. A tutti buonanotte. Cosa c'è? Offrenini! Mrs. Rans, fra poco, no, faccia l'incidente, mi disperde, non ti disperde, ragazzo, e questi che lavora, mi compagnisco, mi compagnisco, e sono i tempi, e sono se mai bello giorno, ti intendi? Per te ti rancuni le offese degli ubriachi e capisca che vieni, ti volla, volla, ti volla, volla, Buonasera, Mini. dentro, ma l'agenzia starebbe molto meglio. Nina mi del Torena. la mia le s'allaccio. L'avventuriera mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia, aspi non vi fidate. Vedete di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine, ma pagare siamo lì. Scusa, gente, ci scusa la mia gente. E poi gente, ma cosa mi fai sul cielo? Che cosa vuol dire? Al mio paese, che faranno la gente. Oh, la gente! Bene, purtroppo ciò, ci sono cice, non cice e tristi. Ciò, cice, brutte nuove, su coraggio. E anche nonna se n'è andata. Uno straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, chi sono questi mostri? È quello che gli ho detto, ma la porta si deve il whisky schietto. In petto, gli aggiusteremo i ricci. Thank you. cammino. A tratto sol dal fascino dell'ora, e questo il suono che non ha ingannato. Giocare il vostro nome forse che quel sentier che ben avotterei. Un tornare m'offriste un primo di Gesù mio. E poi vi dissi, andiamo a coglier le more. Ma io non venni. Dentro che balla con quel pan di Pedofino, giunto da Sacramento. L'hanno appeso a me e son morto. Figlio di cane, mostraci la tua lurida faccia. Tu sei con Ramirez? Un fuggito lo chiamo. Se volete vi porto sulla sua traccia.

non so bene pur io quel che sono. Thank you. grazie, Minni. Verrò. Non vostre fare volo, non vi credo come solete. Thank you. non vorrò mai. Ci sono mezzo sa quasi odiamo e quando fa troppo freddo mi rannicchio in quella che chiami di Sacramento è un bandito da strada. Ma non è vero, lo so, non è vero. Vada di non fidarti troppo un'altra volta. Sola ricchezza mia, per la madre, per i fratelli, all'animale, l'eredità materna. Una masnada di banditi la strada la cercai, era quella il mio destino, ma un giorno m'ho incontrata, ho sognato d'andarmene con voi, vita di lavoro e d'amore, e il labbro mio mormorò un'ardente preghiera, oh Dio, che io non sappia mai, non sappia mai. Oh, son Jack, son lo sceriffo a caccia del tuo Johnson d'inferno. Ho seguito la traccia, deve esser qui dov'è. Ma avete seccato con questo nostro Ramirez? Sono certo, non può essere fuggito, non può essere che qua. Come on! accetto, sì, avrò. Soperbere come un signore, ma per Dio son tutto nella sede di te. Verso il distrutto, ma se vinto t'avrò. Aspettate un momento. Che aspetti? Cerco un mazzo nuovo. Son pronto, taglia, a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. Dea che tu l'adori. Sei un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Che t'avrò fra le mie braccia. Vedi, vedi, ti vinco. Presto già, per pietà. Ma che cosa fare? Che devo darvi? No. È la bottiglia. Vedo, ma gli chiedi da me. Presto già, vedo, chiedi per pietà. Partita è per la casa.

son morto. Un minuto sì breve. Lasciatela! Lasciatela! ci ha rubato il tuo cuore. Io sono Ramona, sarò prima perdo. Vieni. Perdonerai come perdonerete tutti. No, non possiamo. Si può ciò che si vuole. E anche tu lo vorrai ciò. Non sei tu chi m'offri. Yeah. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。